Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Benvenuti, benvenuti a Smart City. È pronta la prima mappa dell'odio sul web, frutto di due studi che potete trovare negli atti di due importanti conferenze internazionali sul mondo del web, l'ICVSM e l'IMC. Sono studi condotti da un gruppo internazionale di cui fanno parte anche due italiani, Gianluca Stringhini ed Emiliano Cristoforo, ricercatori e professori associati dell'University College of London, dove andiamo per incontrare proprio quest'ultimo. Buonasera, buonasera De Cristoforo. Buonasera. Allora, senta, intanto le chiedo proprio come avete fatto a tracciare questa mappa dell'odio, cioè una mappa nella quale si vede più o meno da dove partono tutta una serie di attacchi, di fake news, che sono state anche al centro della cronaca, per esempio durante le elezioni del presidente americano. Abbiamo studiato una piattaforma in particolare, 4chan, che è una piattaforma web simile più o meno ad un forum, dove la mancanza di account e di ogni tipo di censura storicamente ha dato adito a una certa parte di utenti internet che si identificano con l'alt-right. Cioè la destra alternativa americana? La destra, esatto. E abbiamo messo su una infrastruttura per collezionare tutti i post che sono stati postati da un anno a questa parte e abbiamo classificato i vari post a seconda di parole che contengono odio, parole razziste e così via. E siamo riusciti a mappare la nazione da cui questi post provenivano e quindi siamo riusciti a buttare giù questa prima mappa. Ecco, che cosa dice tanto per cominciare questa mappa e anche quali sono i limiti, diciamo, di rappresentazione che questo studio per il momento ha? Diciamo, uno dei limiti è che la piattaforma di 4chan è comunque principalmente English speaking, quindi abbiamo principalmente post che sono scritti in inglese e comunque riusciamo a valutare queste parole di odio e razziste solo in inglese. Oltretutto la geolocalizzazione degli utenti su 4chan potrebbe essere comunque fuorviata dall'uso di proxy, VPN. Cioè uno pubblica un commento però passando da un altro server, diciamo così, per semplificare, che può trovarsi anche in una nazione diversa, per cui non è detto che tutti i commenti attribuibili, non so, a un server cinese siano stati fatti da dei cinesi, esatto. Per capirsi. Esatto, però in realtà abbiamo anche confermato, diciamo, che i post provenienti da alcune nazioni abbiano senso, diciamo, ma corrispondano a topic di conversazione relativi a eventi che stavano succedendo in quei paesi. In quei paesi, erano dibattuti in quei paesi, avete fatto una specie di controllo incrociato proprio anche perché l'unico dato che si ha su chi scrive questi post è la nazionalità, in qualche modo, del server da cui arriva il commento. Esatto. Quindi quali sono risultati i paesi più arrabbiati, diciamo così? In realtà le prime cinque nazioni che abbiamo visto contengono un po' di sorprese, diciamo, nel senso che abbiamo visto nazioni tipo la Nuova Zelanda, il Canada, la Cina, la Germania, oltre a, diciamo, magari quello che ci aspettavamo di più, gli Stati Uniti. E l'Italia com'è messa da questo punto di vista? L'Italia, diciamo, nella media europea. Senta, come funziona? Voi avete fatto poi anche un secondo studio per cercare di capire come si trasferivano questi contenuti da una piattaforma come 4chan, dalla quale spariscono rapidamente dopo essere stati pubblicati, hanno una permanenza abbastanza breve, ciò nonostante poi riescono ad arrivare su media più neutri apparentemente, come per esempio Twitter. Voi avete studiato proprio questo, come funziona? Nel nostro secondo studio ci siamo concentrati sull'influenza che queste piattaforme tipo 4chan o alcuni subreddit hanno su social networks più mainstream come Twitter. E in realtà abbiamo visto che specialmente 4chan e Reddit ha un'influenza molto molto pronunciata su Twitter, quindi tante di queste notizie passano prima da 4chan o da Reddit e poi giungono a Twitter. Voi avete anche visto che ci sono, come dire, delle strategie che a volte lasciano pensare anche a qualcosa di organizzato. Parlate di raid a un certo punto. Sì, diciamo, faccio una breve premessa, nel senso che questi siti tipo 4chan a volte, diciamo, vengono ignorati perché si pensa che siano, diciamo, un lato fringe di internet dove diciamo queste persone commentano vari post e la cosa finisce lì. Invece quello che abbiamo visto nei nostri due studi è che 4chan è una comunità molto organizzata e molto attiva, che le cui azioni non sono confinate. Cioè non è uno sfogatoio e basta, lei dice, no? Dove uno è arrabbiato, scrive una stupidata, resta lì. Questi usano queste piattaforme per organizzarsi, ho capito bene? Diciamo ci sono stati vari aneddoti in passato, tipo quando Microsoft rilasciò quel Typebot su 4chan, si sono organizzati per insegnarle a dire parole razziste, e infatti Microsoft ha dovuto chiudere il bot Ty nel giro di due giorni. Si sono organizzati per fare in modo che Leslie Jones, un'attrice afroamericana, chiudesse il suo account Twitter per via di bullismo. E diciamo, nel nostro studio abbiamo cercato di quantificare questo fenomeno attraverso il concetto di RIDE, dove vediamo postare dei link a video su YouTube, in particolare di utenti diciamo più che sono vittime spesso di bullismo, tipo account che promuovono magari il femminismo o teenager che parlano di dei loro problemi o transgender e così via, con un invito non nascosto ad attaccare questi video, quindi ad andare a scrivere nei commenti insomma parole di odio, di razzismo, bullismo e così via. E questo siamo riusciti a quantificarlo con un modello matematico che diciamo dimostra la sincronizzazione tra quando il link a YouTube viene postato su 4chan e quando diciamo l'attacco comincia a manifestarsi su YouTube. E diciamo che poi nell'altro studio facciamo una cosa simile rispetto alle fake news. Abbiamo un altro modello matematico che dimostra l'influenza di 4chan su Twitter nel diffondere queste notizie. Ecco, senta, questo quadro che lei ci ha raccontato, compresi anche i paesi da cui apparentemente partono più attacchi, è coerente con l'idea che in alcuni casi ci siano, come dire, dei mandanti e degli esecutori che sono dei così seminatori di odio professionisti, come un killer professionista? Non è detto che ce l'abbia con questa gente, ma il suo lavoro è attaccarla. Ecco, quanto è coerente con un scenario di questo genere? Ma diciamo che non abbiamo ancora evidenza totale di questo genere di attività, però è chiaro che sulla questione fake news c'è un bel po' di evidenza che alcune nazioni tipo la Russia diciamo abbiano in realtà speso soldi per influenzare la campagna elettorale americana con una serie di teorie cospirative su Hillary Clinton, con una serie di notizie false e così via. Sulla questione dell'odio non abbiamo ancora una comprensione profonda su questi fenomeni, e questo rimane un problema aperto per capire se questo coordinamento e queste attività sono diciamo organiche, coordinate. Esiste la possibilità di contrastare questi fenomeni? Come eventualmente? Sì, diciamo che un passo avanti che abbiamo fatto negli ultimi anni è il fatto che abbiamo finalmente capito che questo tipo di comunità non vivono in isolamento, ma hanno effetti su altre piattaforme. Per cui adesso possiamo, per esempio, una piattaforma come YouTube potrebbe monitorare piattaforme tipo 4chan o Reddit per capire quando un raid sta per verificarsi, e questi potrebbero immaginare di mettere in atto quindi delle contromosse. È questo il punto. Esatto. Mentre per la questione di fake news, diciamo che in genere questo tipo di battaglia diventa una battaglia economica, nel senso che diciamo ci sono meccanismi, algoritmi che possono insomma riconoscere quali sono le fake news. Però sono, diciamo, riusciamo a trovarle solo se sono abbastanza semplici, il che significa che sono stati spesi soltanto pochi soldi per questo tipo di attività, mentre possiamo fare ben poco contro, diciamo, attività molto organizzate, diciamo, che hanno a disposizione dei fondi non indifferenti, come è stato per esempio il caso della Russia. Ecco, qui ci resta solo il buon senso che ognuno di noi dovrebbe cercare di esercitare ogni volta che legge qualcosa su internet. Grazie Emiliano De Cristoforo. Grazie mille. Va bene, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento, a domani.